Giovedì 9 febbraio del 2017, 87.9 la modulazione di frequenza. Questo è il cinema su Radio Onda Rossa. Tutti i giovedì dalle 14 alle 15 ci ascoltate su queste frequenze e anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. Sull'home page c'è Ascolta la diretta. Per saperne di più sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione, potete consultare il sito internet della radio, sempre sull'home page, colonna centrale. Trasmissioni visionari sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Eccoci con Andrea Scarcella, co-regista e coproduttore del film Grosso Guaio a Roma Sud, che sta per essere visibile pubblicamente. Andrea, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Allora, mi hai contattato per quest'idea, mi incuriosisce molto questo titolo. Allora, raccontiamo un po' di cosa si parla. Dunque, si parla di un progetto un po' ambizioso, ma sicuramente che potrà dare tante soddisfazioni sia a noi che l'abbiamo ideato, prodotto, interpretato e diretto, e sia anche diciamo al pubblico che potrà vedere questo nostro lavoro online dalla settimana prossima, diffuso sulle principali piattaforme web, YouTube, Vimeo, eccetera, insomma. L'idea di questo film è nata tra me e il mio co-regista Andrea Pirri Ardizzone. Dunque, l'idea è nata partendo da una web serie, da un soggetto, sì, per una web serie. E poi diciamo che con il passare delle giornate di lavorazione, di riprese, analizzando i giornalieri, abbiamo deciso che era una buona idea produrre un lungometraggio, visto sia la mole di materiale, sia anche l'intreccio che a questo punto si stava delineando sempre più sotto una forma di lungometraggio, piuttosto che per una web serie. Sì. Senti, in maniera indipendente è nato e si è sviluppato, ecco. Totalmente indipendente. Ecco, raccontaci un po' di questa via indipendente che avete intrapreso. Dunque, noi avevamo l'esigenza di girare, ci andava di cimentarci con questo lavoro, ci andava di farlo soprattutto in maniera totalmente indipendente, slegati da qualsiasi vincolo. E quindi abbiamo ideato un metodo di lavoro che noi definiamo no budget invece che low budget. Sì. Siamo andati avanti con questo progetto che ci ha portato via un sacco di tempo, un sacco di energie, ma che ci ha dato e ci sta dando e spero ci darà tante soddisfazioni. Abbiamo coinvolto un sacco di persone più o meno note del panorama underground, del panorama musicale e degli audiovisivi underground di romano. Abbiamo con noi i Mini Mad, che sono un duo di youtubers molto abbastanza noti in questo momento, e abbiamo anche l'interpretazione del Cicoria, di Armando Sciotto, conosciuto come il Cicoria, rapper appartenente alla formazione del Truce Clan, che adesso lavora diciamo più da solista, e più una serie di altri attori e performer emergenti che speriamo con questo nostro lavoro trovino uno sbocco anche di visibilità, insomma. Senti, questo titolo che ne richiama uno degli anni 80? Questo titolo diciamo che è stato abbastanza, anche questo è venuto da sé. Noi avevamo intenzione di chiamare questo lavoro Torma Arancia Meccanica, perché la web serie nasceva diciamo dall'idea di fare una serie di sketch o di pillole andassero a riprendere un po' i titoli di vecchi film importanti, e quindi ne avevamo parecchi, però soprattutto riadattandoli sul panorama romano, quindi erano tutta una serie di titoli che riprendevano questi vecchi titoli di questi film, di vecchi e nuovi film, e che però avevano al loro interno un elemento che li connotasse come romani. E poi ci siamo resi conto che appunto la natura del progetto stava prendendo proprio un'altra forma, e quindi abbiamo deciso di chiamarlo Grosso Guai a Roma Sud, perché riprendeva sempre il panorama, l'immaginario del cinema cioè del cinema diciamo di serie B, no? Del cinema di questo cinema anche di culto, no? Che, sì, voglio dire, Grosso Guaio a Chinatown è un film che appartiene all'immaginario collettivo di tutti, e soprattutto ci permetteva anche di connotare bene la zona di Roma in cui il film si svolge, in cui la storia prende piede, e anche ci permetteva di caratterizzare, di permettere una caratterizzazione sia subito partendo dal titolo anche di certi personaggi che noi raccontiamo. Ovviamente ci sono delle forzature, ovviamente ci sono degli aspetti molto caricaturali, ma noi, come abbiamo scritto nel nostro comunicato stampa che è disponibile online, speriamo che questa provocazione venga colta per quella che è, cioè per un gioco, cioè per qualcosa di divertente. E insomma, questo. Bene. Senti, un altro, sempre rispetto agli anni 80 e al titolo, io vi ricordo, insomma, che fino a poco tempo fa, non troppo tempo fa, Roma si era connotata dai quartieri, dalla definizione a quartiere. Adesso invece si è passati a due zone principali, Roma Nord e Roma Sud, e ha preso piede questa cosa. Non capisco perché, però. Io meno che mai, ma sicuramente essendo Roma Sud la parte di Roma dove sono cresciuto, dove vivo e dove vive anche Andrea Pirri Ardizzone, il mio socio, diciamo che sembrava doveroso insomma citare questa zona di Roma, anche se poi per Roma Sud si può intendere tranquillamente Roma Est, diciamo una Roma un po' più popolare rispetto allo stereotipo della Roma, sì. della Roma bene, no? Quella un po' anche dei cinepanettoni e di tutta quella diciamo ondata di prodotti per il web che appunto inneggiano a una ipotetica, a un ipotetico muro che divide Roma Nord da Roma Sud. Volevamo anche giocare un pochino con questa cosa. Noi ci sentiamo sempre molto più del sud, noi siamo sempre molto più come diceva anche Nanni Moretti, noi siamo dalla parte, saremo sempre più a nostro agio nella minoranza, e se la maggioranza diciamo parla di Roma Nord, noi spingiamo Roma Sud, insomma. Senti, a questo punto ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, sicuramente. Intanto prima di tutto su Facebook chiunque può andare a vedere la pagina pubblica Good Trellas, che è la pagina della distribuzione, diciamo è il gruppo di lavoro che distribuisce il film insieme ad altre piattaforme che invece si muovono più diciamo sul panorama di YouTube, e quindi su Facebook Good Trellas, dove troverete il trailer, e invece su YouTube, sulla pagina Grosso Guaio a Roma Sud, si troveranno i riferimenti sia al trailer che a tutti diciamo i contenuti e tutti i contributi che fino adesso abbiamo a disposizione del film. E poi ovviamente continueremo ad aggiornare queste pagine fino all'uscita definitiva del film, che è prevista tra il 12 e il 13 di febbraio, e via, è questo. Allora avremo modo magari di riparlarne. Un abbraccio e a presto. Grazie a tutti, un saluto a tutti. Ciao. Andrea Scarcella, co-regista e coproduttore del film Grosso Guaio a Roma Sud. Eccoci con Duccio Chiarini, regista del documentario Settembre. Ben ritrovato su queste frequenze, a Visionari, su Radio Onda Rossa, Duccio. Ciao, buongiorno, grazie. Voi. Allora Duccio, seguo sempre ogni anno il Via Emilia Dog Fest, ho visto che c'era anche questo tuo lavoro ed è anche, credo sia stato il più votato e visto, se non sbaglio. Sì, così, stati contenti di ricevere questo premio, soprattutto per i ragazzi che hanno partecipato a questo lavoro che era tutto incentrato su di loro, ecco. Allora, ce lo racconti in breve? Sì, settembre racconta un, come si evince dal titolo, insomma, un momento legato appunto al mese di settembre, alla fine dell'estate, al ritorno a scuola di tre ragazzi di età e provenienze diverse, che sono però accomunati dal fatto di soffrire tutti e tre di, insomma, di diabete di tipo 1. È un documentario che nasce così dalla volontà dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze di raccontare come l'ospedale segue i ragazzi appunto con il diabete, e quindi da questo incontro con un gruppo di ragazzi appunto dell'ospedale Meyer abbiamo deciso di raccontare appunto tutto il percorso della cura e dell'assistenza agli adolescenti, non partendo dall'ospedale ma appunto dalle storie di ognuno di loro. Quindi io ho conosciuto questi ragazzi, ho scelto così tra i tanti e tra le belle storie che c'erano quelle di tre di loro, e mi sono così avvicinato a loro cercando di raccontare la loro quotidianità, la loro vita, le loro speranze, insomma, tutto quello che fa parte della vita di uno di noi, ovviamente con l'attenzione particolare che c'ha l'adolescenza, e da questa cosa è nato il documentario. Senti, che esperienza è stata nel frequentarli, nel parlarci, insomma, del passare del tempo con loro? Ma sai, ognuno di loro ha, a parte un'età, cioè Sofia ha 13 anni, Tommaso ne ha 18, quindi sono questi un po' gli estremi, quindi sono estrazioni sociali, problematiche molto diverse. La sensazione è quella appunto che li accomuna tutti, e che il diabete non sia che uno dei tanti tasselli che compongono il loro quotidiano. Mm-hmm. Per cui anche restituendo questa, provando a restituire, insomma, poi la complessità della vita per immagini, non è che si riesce sempre, certo, a portarla, magari uno prova a dare delle impressioni, ecco, nelle impressioni che ho dato di loro, che loro hanno raccontato a me, c'è quella appunto di una complessità in cui il diabete è soltanto uno degli elementi, e forse un elemento di ostacolo, sicuramente un elemento che complica, sicuramente un elemento che è da affrontare ogni giorno, ma anche che in qualche modo esalta con la sua presenza sempre costante, fa un po' da contrasto, insomma, esalta anche la voglia invece di superarlo, quindi mette in risalto questa forte vitalità di tutti loro. Duccio, un'altra cosa rispetto ad una società in cui di fatto soprattutto a livello di comunicazione e di mass media è bandita, insomma, la malattia e la morte, e c'è d'altro canto invece da parte del mondo documentaristico un'attenzione a questi temi, anche con risultati notevoli. Sì, ora in generale sì, effettivamente è così, tutto ciò che è scomodo, che comunque suscita delle sensazioni un po' più, sembra, poi non vorrei fare qualunquisti, però in generale sembra sì che l'elemento della malattia, della morte, vengono banditi, se non poi esaltati nel momento in cui poi qualcuno viene a mancare, eccetera, però nel quotidiano sono cose che con cui raramente si vuole avere a che fare, e questo crea una specie di rimosso. Nel mio caso non particolare, non penso, sì, però sì, sicuramente mi ha affascinato molto l'idea di poter raccontare, ecco, questo incontro di questi ragazzi con una malattia che sicuramente non è mortale, ma non è nemmeno una cosa semplice da gestire nel quotidiano, ha delle complicazioni, può portare a grossi problemi se non seguita con attenzione. Per cui, ecco, diciamo, il documentario penso che lasci un'impressione di leggerezza, di speranza, di speranza, ecco. Sicuramente però è più complesso anche lì di quello che uno può vedere, perché poi basta un attimo perché la malattia possa prendere pieghe inaspettate, insomma. Certo. Senti Duccio, oltre al Via Emilia Dog Fest, che tipo di fruizione sarà possibile per chi volesse vederlo? Ma questo è diciamo l'aspetto distributivo, è un po', non me ne occupo direttamente io, un documentario un po' particolare che appunto nasce dalla fondazione del Meyer, quindi io l'ho fatto un po' per loro, diciamo così, insieme a loro. Sta andando nei festival, è andato adesso in un festival, diciamo, tutti più principalmente a tematiche giovanili, adolescenziali, è stato ora proiettato in Finlandia. So che stanno cercando di, insomma, di farlo passare in televisione, a breve penso di che ne sapremo qualcosa di più. Senti, sei al lavoro anche su altri progetti? Sì, varie cose, sto con altri due progetti documentari, spero a breve, e poi se tutto va bene in autunno dovrei girare nel prossimo film. Benissimo, allora magari avremo modo di risentirci. Ti abbraccio e a presto. Grazie mille, un abbraccio a tutti voi. Ciao, ciao. Duccio, ciao. Duccio Chiarini, regista del documentario Settembre. E ritroviamo Mario Martone, co-regista del documentario DERT. Ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora Mario, ho avuto modo di vederlo quest'estate perché era all'interno del Clorofilla Film Festival. Ne parliamo con chi ci ascolta, lo descriviamo? Sì, certo. DERT è un documentario che ha al centro la storia della cooperativa Insieme, che è una cooperativa bosniaca che nasce a pochi chilometri da Srebrenica, che come molti sanno è un luogo dove ha avuto luogo il più grande massacro di civili non armati dopo la Seconda Guerra Mondiale, e noi siamo andati lì per raccontare la storia di questa esperienza e di alcuni protagonisti, in particolare la presidente, il direttore della cooperativa, le persone che ci lavorano e la loro diciamo capacità di ricostruire una situazione lavorativa, di vita, di normalità in un posto dove la guerra ha lasciato una devastazione sociale, economica impressionante. E in questo viaggio ci ha accompagnato Mario Boccia, che è un fotoreporter napoletano che ha seguito tutto la guerra dei Balcani, un fotoreporter romano che ci ha fatto conoscere questa esperienza della cooperativa in un lavoro che abbiamo fatto insieme una decina di anni fa. Quindi è lui il nostro traghettatore in questa esperienza. Tra l'altro l'ho conosciuto quest'autunno alla premiazione del Clorofilla Film Festival, è stato un piacere, sì. Insomma. Senti Mario, che realtà hai appurato, insomma, che esperienza è stata questo viaggio? Dunque, questo viaggio è stata una bellissima esperienza per noi, incredibilmente intensa, perché abbiamo potuto rivisitare i luoghi devastati dalla guerra dei Balcani, e uno dei posti che ne ha subito le conseguenze più atroci e più terribili, ma diciamo a fianco di tutto il dolore, la devastazione lasciata da questa guerra, quando abbiamo girato il documentario ricorreva il ventennale del massacro di Srebrenica, nel luglio del 2015 ricorrevano i 20 anni, abbiamo potuto trovare una realtà di persone che ci hanno sorpreso incredibilmente, ci hanno insegnato come è possibile costruire fianco a fianco persone che sono state divise da questo conflitto, persone a cui è stata imposta una divisione cosiddetta etnica, queste persone si sono rimesse fianco a fianco per ritrovare una normalità, una condizione di vita che attraverso la costruzione di un reddito possa permettere poi di ricominciare, ma in maniera diciamo positiva, al di là di tutte quelle che possono essere le retoriche della multietnicità, della condivisione delle tavole rotonde. No, queste persone hanno costruito una cooperativa, lavorano i frutti della terra, in particolare i lamponi e piccoli frutti, ne fanno marmellate e succhi di frutta, e attraverso la distribuzione che hanno trovato anche in Italia, grazie a una rete di solidarietà, di associazioni, di singoli che hanno permesso il rafforzarsi di questa esperienza, riescono in questo momento ad aggregare circa 500 soci attorno a questa cooperativa, che quindi produce, lavora e distribuisce questi prodotti. Quindi, nonostante le ferite della guerra, è possibile una convivenza? Assolutamente, nonostante le ferite della guerra è possibile, e soprattutto queste persone ci hanno fatto capire che anche in un posto in cui, diciamo, uno studio di fattibilità, come ci ha detto Rada, la Presidente, se avessero fatto uno studio di fattibilità in quel luogo, nessuno avrebbe detto che questa esperienza sarebbe stata possibile, invece loro ce l'hanno fatta. Ovviamente non sono stati da soli, ma sono stati supportati da tutta una serie di sensibilità vicine a questa esperienza, però alla fine dopo più di 10 anni sono riusciti a consolidarsi, anche se comunque in questo momento devono affrontare problemi economici quotidiani per portarla avanti, mm-hmm. Economici e politici anche, perché i nazionalismi in quel luogo non sono assolutamente finiti, le dinamiche che hanno portato alla guerra ci sono ancora, ci sono degli strascichi, ci sono ancora delle persone al potere che sono quelle, alcune di quelle che hanno determinato il conflitto, e quindi la situazione sociale è ancora molto molto complicata. Rispetto agli anniversari, fa impressione, di questo ne ho parlato anche con il vostro amico fotografo, che insomma vi ha fatto da traghettatore, durante le cerimonie della ricorrenza, questa pornografia del dolore, per cui c'è un ammassarsi di fotografi intorno alle bare con le donne piangenti, il che, visto dal dietro le quinte, fa impressione. Sì, questa è stata un'esperienza drammatica per noi, che ha messo anche in discussione il nostro stesso lavoro come documentaristi, perché noi ci siamo comunque ritrovati dietro una macchina da presa a documentare questo evento, ed eravamo comunque insieme a una quantità impressionante di reporter, fotografi, giornalisti, però gran parte dei quali, diciamo, pongono la loro attenzione su quel luogo per un giorno all'anno. Sì. Per il resto dell'anno quel luogo scompare, viene dimenticato, tutte le persone che ci abitano non hanno nessun tipo di vicinanza, di assistenza, quindi viene scompare completamente da qualsiasi schermo mediatico. E questo è uno dei problemi che porta anche alle condizioni in cui adesso versano quei luoghi. E in quel turno invece, in particolare nel ventennale, c'è stato un accumularsi di persone che in qualche maniera lavoravano su questo dolore. Questo purtroppo porta anche a alcune delle persone che sono lì a ridurre l'identità di queste persone solamente a quella di vittime della guerra, cosa che le persone che noi abbiamo incontrato nella cooperativa, per esempio, rifiutano fermamente, non vogliono essere ridotte a una dimensione unidimensionale di vittime di guerra. No, loro sono persone che vogliono avere una famiglia, che da 20 anni vogliono ricostruirsi una vita, avere dei figli, una casa, un reddito, e quindi poter avere una vita dignitosa soprattutto. Senti Mario, ci lasci tutti i riferimenti per saperne magari di più, non solo sul documentario ma anche su eventuali calendari di proiezioni pubbliche? Sì, allora la pagina web del documentario è dertdoc.it, abbiamo anche una pagina Facebook che è Dert, il documentario, e prossimamente abbiamo delle proiezioni previste nella rassegna cinetica di Torino il 15 febbraio, al 10 marzo a Cuneo, il 24 aprile alla Fiera del Libro di Iglesias, e poi continueremo con il circuito festivaliero, e nell'ambito della rassegna Doc in Tour saremo in alcune sale dell'Emilia Romagna. Benissimo, allora un abbraccio, a risentirci presto. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti. Ciao Mario, ciao. Ciao, ciao. Mario Martone, co-regista del documentario Dirt. In collegamento con Michele Tarzia di Movimento Milk, co-regista del documentario No Man is an Island, che è online su OpenDDB, Open Distribuzioni dal Basso. Allora Michele, mi avevate segnalato questo vostro lavoro su Open Distribuzioni dal Basso, intanto cominciamo con il parlarne, insomma, cos'è questo No Man is an Island? Sì, allora, No Man is an Island è un film che abbiamo girato nel 2013, girato forse anche sbagliato dirlo, perché è stato in qualche modo costruito in montaggio, non c'è stato un lavoro di riprese reali effettive. Il film si compone attraverso una serie di immagini d'archivio che sono state da noi selezionate su un sito di dominio pubblico che si chiama internetarchive.org, un sito americano dove noi ci basiamo per recuperare un po' di materiale d'archivio. Sì. Il film in qualche modo indaga la vita dell'uomo, come già il titolo stesso dice, nessun uomo è un'isola, ognuno di noi è una parte dell'universo. Partendo da questa idea del titolo, che è ispirato ad una omonima canzone di John Baez, indaghiamo in qualche modo la vita dell'uomo attraverso le varie fasi del suo processo naturale. Il film apre con una scena, con delle scene di vita quotidiana di alcuni abitanti di alcune città americane, per arrivare poi all'indagine, ad una visione dello spazio profondo, dell'ignoto spazio profondo, quindi dell'universo. E tra l'inizio e la fine c'è in mezzo una sorta di attesa, che questa attesa è costituita dai vari processi che l'uomo fa durante il suo percorso di vita, no? Quindi il rapporto con la natura, il rapporto con gli animali, il rapporto con l'urbanistica e tutto ciò che ne concerne per quanto riguarda i suoi stati mentali, i suoi stati d'animo. Mm-hmm. Vai, stavi continuando. La cosa che ci interessava era lavorare in qualche modo non riprendendo delle persone reali, lavorando in maniera indiretta sui rapporti umani, no? Capire anche la differenza nel girare un documentario con delle persone e farlo in maniera fittizia, quindi attraverso le immagini capire come si può collegare un'immagine girata da una persona piuttosto che da un'altra. Quindi questo in qualche modo diventa poi una sorta di ricerca sui comportamenti umani, ecco. Sì. Volevo chiederti che tipo di materiali d'archivio avete utilizzato, Michele? E qui abbiamo utilizzato praticamente immagini girate da persone che sono i cosiddetti film di famiglia. Sì. Quei film che vengono girati e poi in qualche modo dimenticati, se non per le persone che le hanno girate. Quindi praticamente è questo. Senti, che raccontiamo anche un po' l'esperienza di Movimento Milk? Sì, Movimento Milk è un duo artistico che nasce nel 2011 costituito insieme a Vincenzo Vecchio, e portiamo avanti un'idea di cinema che praticamente lavora con l'archivio. Se non ricordo male, un anno fa abbiamo presentato Ritratti e Meduses, sì, due lavori presenti su Distribuzioni dal Basso. Nasce principalmente come cinema di ricerca, ecco. All'inizio voleva essere un collettivo che unisse diversi filmmakers del sud per lavorare su un nuovo linguaggio estetico. Sì. Ma poi il progetto è andato un po' a male, siamo rimasti io e Vincenzo e partiamo avanti questa idea da 5 anni, facendo sia film sia ricerca di installazioni video sull'arte contemporanea. Mm-hmm. Quindi, molto molto sommariamente questo, ecco. Sì, sì. Senti, ci lasci tutti i riferimenti web per avere maggiori informazioni su di voi? Certo. Allora, il sito è innanzitutto www.movimentomilch con la C non con la K.com, perché molti si confondono, oppure ci potete trovare su Facebook, sulla pagina Movimento Milch. E poi su Distribuzioni dal Basso, dove troverete sia No Man is an Island, sia altri piccoli film come Ritratti e Meduses, e un altro documentario dal titolo L'insostenibile leggerezza dell'essere stato. Senti, il vostro principale canale è il web, la piattaforma, sì. Distribuzioni dal basso. Come distribuzioni, sì. Mm-hmm. Altri lavori si possono avvicinare su Vimeo, sulla pagina Vimeo. Okay. Lì ci sono dei lavori che sono liberi e fruibili in maniera pubblica. Bene. Allora, Michele, io ti ringrazio, ci sentiamo per le prossime. Sì, volentieri. Grazie a te e a presto. A presto. Ciao, Michele. Ciao. Michele Tarzia di Movimento Milch, co-regista del documentario No Man Is an Island, online su OpenDDB, distribuzioni dal basso. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema, tutti i giovedì dalle 14 alle 15, in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza e in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. Sull'home page c'è Ascolta la diretta. Le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sul sito internet della radio, sull'home page, colonna centrale, trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Donato Canosa, regista del documentario La cacciata del malvento. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa, Donato. Ciao, grazie, ciao a tutti. È la prima volta che ci sentiamo in trasmissione. Ho visto che il tuo lavoro era presente all'interno del Via Emilia Doc Fest e mi incuriosiva anche la storia di questo lavoro, per cui ti ho cercato, ci siamo trovati e adesso raccontiamo anche un po' a chi ci ascolta che cos'è La cacciata del malvento. Allora, La cacciata del malvento è un documentario che parla, insomma, parte da un ricordo di quando ero bambino ed è sul tema della fascinazione, ovvero quello che gli antropologi e in particolare De Martino descrivono come un senso di costrizione, di impedimento generato dall'invidia. Quindi in pratica è su questa pratica sociale, questa pratica contadina che si utilizzava e si utilizza ancora in alcune forme per, come dire, scacciare e difendersi dal malocchio. Mm-hmm. Questo, diciamo, che è il focus principale del documentario. E quindi, insomma, ripercorre un po' le strade per cercare una mia origine, perché sono nato comunque in Basilicata e quindi sono andato un po' alla ricerca di questo. Mm-hmm. Senti, cosa c'è all'origine, appunto, di queste pratiche? Ma allora, l'origine precisa di queste pratiche è difficile da individuare. Probabilmente si pensa che abbiano origini pagane, quindi sì, che risalgono addirittura al mondo greco, al mondo romano. Quindi tutta l'area della Magna Grecia, anche dei Balcani, ha poi mantenuto una sorta di mondo, di atmosfera che è simile, anche se prende forme differenti. Quindi quello che cioè è una sorta di, come dire, origine geografica e in qualche modo storica. Di fatto, appunto, prende varie forme e nel caso della Basilicata questa cosa è ancora molto forte ed è appunto questa si parte da questo piccolo aspetto che è l'invidia, che è una persona qualunque, quindi anche chi è inconsapevole esercita su un'altra persona, per esempio quando ha qualcosa di più di quello che ha, di quello che si ha, insomma, allora quasi lo carica di una sorta di forza negativa. Questo probabilmente è diventato forte, possiamo immaginare per esempio il periodo in cui sono vissuti i miei nonni, cioè durante la Seconda Guerra Mondiale oppure subito dopo, dove in Basilicata c'era una condizione economica possiamo dire drammatica, insomma, una povertà estrema, e quindi il fatto di avere qualsiasi cosa, che fosse anche soltanto un figlio in salute oppure un raccolto, un buon raccolto, insomma, poteva essere, come dire, fonte di invidia verso le altre persone. Mm-hmm. Questo poi ovviamente si va a mischiare al forte analfabetismo che c'era in alcune aree, insomma, in quel periodo, e diciamo un modo per alimentare una credenza che comunque è sempre rimasta molto radicata. Ovviamente adesso assume delle connotazioni differenti, insomma, e quindi si possono trovare delle anziane che ti dicono no, non ci credo, non ci ho mai creduto, poi c'è la scienza che ci spiega tutto, e invece dei giovani che invece sono ancora legati a questa cosa e vogliono imparare e trasmettere questo tipo di pratica. Senti, in parte immagino che questo radicamento di tali credenze sia dovuto anche al fatto che storicamente la Basilicata è rimasta sempre un po' tagliata fuori dalle rotte turistiche, ma anche dalle grosse vie di comunicazione. Sì, la Basilicata sì, è una sorta di isola in mezzo ad altre regioni che sono più gettonate, o comunque sia dal turismo, insomma, o comunque che sono anche a livello, possiamo dire, anche culturale più conosciute, quindi sì. Dalla Campania, la Puglia o la Calabria, per diversi fattori, insomma, come dire, è rimasta abbastanza un po' sempre nell'anonimato. C'è anche da considerare che in Basilicata, come dire, la popolazione è veramente ridotta rispetto alla superficie della regione. Si parla più o meno di 500.000 abitanti, quindi voglio dire, se si pensa ad una città di media grandezza italiana, abbiamo, come dire, la stessa popolazione in un'area molto più vasta. Quindi è sempre rimasta un po', come dire, un po' in penombra. Adesso con Matera, che sarà appunto anche capitale della cultura nel 2019, insomma, si sta muovendo, insomma, qualcosa anche dal punto di vista cinematografico. Ci sono tantissime produzioni cinematografiche lucane, anche grazie alla Lucana Film Commission, eccetera, e quindi insomma, diciamo che un po' qualcosa si sta muovendo. Senti, rispetto all'occupazione giovanile, qual è la situazione? Allora, io innanzitutto premetto che vivo a Torino. Ok. Nel senso che mi sono trasferito a Torino quando ero piccolo, quindi io dalla Basilicata, cioè, come dire, sono andato via molto presto. Okay. Però ovviamente ho i parenti, ho, insomma, molto vicini, ho tantissimi amici, vado giù continuamente, quindi voglio dire, ho sempre dei legami molto forti con la Basilicata. E la realtà è più o meno quella che ci si immagina, ovvero che ad una certa età, che può essere il periodo di quando ci si iscrive alla scuola superiore e soprattutto all'università, la maggior parte dei giovani vanno via, quindi almeno, insomma, spopolando i paesini, almeno a Potenza, se non a Bari, Napoli, oppure Roma e poi su Torino, Milano. Quindi tantissimi ragazzi, miei amici del paese, sono qua a Torino, per esempio, quindi perché ovviamente si spostano tutti, sia per studiare e poi sia per lavorare, perché chi ha già una situazione, vuol dire, che è un po' già avviata o qualcosa del genere, insomma, può trovare lavoro, occupazione, eccetera, altrimenti è complicato dappertutto, ma in alcune aree forse è un po' più complicato. Senti, rispetto al tuo documentario in rete, ci lasci dei riferimenti? Sì, allora, le informazioni si possono trovare sulla pagina Facebook di Mufilm, un film di Andrea De Aglio, che è stato il mio fedele compagno, insomma, in questa avventura della produzione del documentario, quindi a lui devo tantissimo, e perciò si può vedere sulla sua pagina, oppure anche tramite la mia pagina Facebook, quindi Donato Canosa, oppure attraverso il sito appunto di www.mufilm.it, c'è una pagina dedicata al documentario. Benissimo. E quindi da lì potete poi trovare maggiori informazioni e anche, insomma, per future proiezioni. Ok, allora Donato, speriamo di risentirci presto per delle novità. Grazie a voi, davvero. A presto. Grazie. Allora, ciao. Grazie, buona giornata e buon pomeriggio a tutti. Ciao ciao. Ciao. Donato Canosa, regista del documentario La cacciata del malvento. Laura Viezzoli, regista del documentario La natura delle cose. Benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa, Laura. Ciao Federico, grazie. Ho la voce un po' raffreddata, mi dispiace, però sono qua. Perfetto, ti sentiamo bene, non ti preoccupare. Allora Laura, il tuo documentario è stato premiato pochi giorni fa ad un festival e allora mi incuriosiva saperne qualcosa di più, la natura delle cose, di cosa si parla? Dunque, è il viaggio che io ho compiuto con Angelo Sant'Agostino, che era un uomo malato terminale di SLA che ho avuto la fortuna di conoscere qua a Milano ormai 3 anni fa. E quindi è il nostro viaggio nel suo percorso di fine vita, diciamo così. Detto così, è un film che può sembrare iperdrammatico e difficile, in realtà io ho avuto la fortuna di passare del tempo con un uomo molto vivo, molto lucido, brillante e molto interessante, ecco. È stato un viaggio un po' nello spazio, se vogliamo. Come da locandina. Come da locandina, sì. Sì, perché poi diciamo i due elementi visivi del film sono da una parte la sua realtà fisica, nel progredire della perdita del suo corpo a causa della SLA, quindi una realtà diciamo immobile e dura, e dall'altra invece c'è la sua dimensione mentale e la dimensione dell'incontro con me nel dialogo, che ho rappresentato utilizzando materiale astronauta. E in questo senso è stato un po' un viaggio nello spazio, sia nel film a livello visivo che per me come esperienza di vita. Senti, com'è partito il tutto e anche l'idea di filmare questa storia? Il tutto è partito in realtà dalla lettura di un libro molto molto interessante di Pier Giorgio Welby, ormai diversi anni fa, un libro di poesie e di ricordi, e un libro che era assolutamente concreto nel raccontare la perdita del corpo, ma anche molto visionario, e nel quale io, leggendo, mi sono immedesimata. Da questa immedesimazione è nato il desiderio di portare su schermo qualcosa di simile. Poi Pier Giorgio Welby, di cui penso tu abbia già sentito parlare, o i radiospettatori, insomma. Sì, sia per il teatro che per i documentari, se ne abbiamo. Esatto. E Welby non c'era più, io ho cercato qualcuno che vivesse nel suo corpo, nella sua mente, qualcosa di simile. Però la mia fonte di ispirazione è stata Welby. E com'è per allora, da parte di questa persona che hai avuto modo di frequentare, il modo di affrontare la malattia? Com'è stato il suo rapporto con la malattia? È una domanda difficile. Dunque, come tutte le cose grandi della vita, hai momenti di smarrimento e momenti di accettazione, momenti in cui senti che ce la fai e momenti in cui senti di dovertene andare, insomma. È stato un rapporto conflittuale. Quando ti capita addosso la SLA hai una condanna, che è quella di scomparire in un tempo piuttosto breve, quindi è una condanna molto molto pesante, e lui l'ha affrontata cercando di esprimere il proprio pensiero e la propria personalità fino alla fine. Poi ha, diciamo, dichiarato nel suo testamento biologico, che è presente nel film e nelle sue ultime volontà, il fatto che per lui il confine tra il vivibile e il non vivibile stava nella mobilità degli occhi. Lui era in un momento in cui aveva come ultimo movimento quello degli occhi con cui comunicava attraverso un computer. Per lui il confine era quello. Nel momento in cui si fossero fermati gli occhi, riteneva che quella malattia non sarebbe stata più assolutamente vivibile. E ecco, in questo senso secondo me Angelo, pur nel suo essere cattolico, pur nel suo essere molto determinato, pur nel suo spessore culturale che l'ha aiutato a stare in vita nonostante tutto, è un esempio importante secondo me ai giorni d'oggi, in cui manca ancora una posizione legislativa chiara, dove insomma le persone non hanno ancora una libertà di scelta in fine vita. Ecco, proprio anche in rapporto a questa tua risposta, volevo chiederti com'è il rapporto con gli altri, con chi non è malato. E c'è della solitudine, c'è della solidarietà, e come si vive? Allora, io posso parlarti rispetto alla SLA, questa malattia particolare. È una malattia che ti pone in una situazione di solitudine e anche di dipendenza dagli altri, quindi è una situazione anche di debolezza, se vogliamo. Se allarghiamo il discorso al di là di Angelo, dunque lui si è ammalato a Milano, quindi in Lombardia, dove c'è un'assistenza anche domiciliare molto buona. Questo non c'è in tutta Italia. Lui ha avuto la possibilità di vivere la sua malattia in casa, dove veniva comunque costantemente monitorato da un'equipe di palliativisti molto in gamba, che l'hanno aiutato a affrontare la malattia. Nonostante la solitudine interiore che un uomo colpito dalla SLA può avere, lui ha avuto un apparato di professionisti che l'hanno supportato molto bene. Ha avuto anche uno psicologo che l'ha aiutato a affrontare la malattia. Questo non è presente in tutta Italia ancora. Sì. Senti Laura, il titolo è stato rubato da un libro molto più famoso del film, e dal libro di Lucrezio, perché secondo me era un titolo semplice per mostrare immediatamente quello che era il cappello filosofico del film, e cioè che nel momento in cui sei in grado di accettare il fine vita, cioè la presenza di una fine, tutto il resto può diventare molto più prezioso. In due parole è questo. Senti, per saperne di più, anche per un calendario di proiezioni, ci lasci dei riferimenti web? Sì, noi abbiamo una pagina Facebook, La Natura delle Cose Film, dove postiamo le uscite ai festival o le proiezioni. Poi c'è la pagina anche della casa di produzione di Lorenzo Cioffi, l'ADOC, dove ci sono tutte le informazioni del film. E speriamo di uscire presto in sala, ci siamo appena affidati alla distribuzione Movie Day e penso per fine marzo, inizio aprile, che dovremmo uscire in qualche città. E allora magari ci sarà modo per rincontrarci. Va bene, grazie. Un abbraccio, a presto, ciao Laura. A presto, ciao. Laura Viezzoli, regista del documentario La Natura delle Cose. Allora, su due linee separate abbiamo Enrico Parenti e Alessandro Fabrizi per parlare di un documentario che presto speriamo vedrà anche la luce per proiezioni pubbliche, e sto parlando di Shakespeare on the Rocks. Intanto benvenuti ad entrambi. Ciao, grazie. Allora, come dicevo, con due linee separate, probabilmente la cosa migliore per sentire le risposte dell'altro per ognuno di voi sarà sentire in streaming dal sito della radio ondarossa.info. Sull'home page c'è Ascolta la diretta. Allora, partiamo dal progetto che ha fatto nascere tutto, ossia un festival di teatro ecologico. Cominci tu, Alessandro? Sì, ok, anche perché non riesco a mettere lo streaming, per questo possiamo di fare. Ok. Allora comincio io. Allora dal 2013 a Stromboli c'è la festa di teatro ecologico. Vuol dire che tutti gli spettacoli, teatro, musica, danza, incontri con autori di libri e altri incontri si svolgono senza utilizzo di energia elettrica per l'illuminazione o per l'amplificazione, e quindi è tutto la luce del sole o le altre stelle, diciamo noi, e che sono appunto o le stelle vere e proprie o fuochi, candele, lampade a gas naturale che cura l'altro direttore artistico della festa, che è Hossein Taheri. Questa estate scorsa, nel 2016, essendo appunto ricorrendo i 400 anni dalla morte di Shakespeare, abbiamo dedicato la festa appunto a William Shakespeare, anche tra le altre cose con una messa in spiaggia più che una messa in scena, della tempesta, della tempesta di Čech, praticamente integrale, e su varie spiagge in una vera grotta. Sapete che la tempesta comincia in mare ma poi continua nella grotta di Prospero, e là c'è una grotta che si chiama Grotta di Eolo, dove abbiamo portato gli spettatori e hanno incontrato Prospero, Ariel, Miranda e gli altri personaggi. E grazie al nostro main partner, che non so se posso citare la radio, ma insomma tutti sanno chi è, abbiamo realizzato un documentario, appunto, e qui entra in gioco Enrico Parenti, che è un bravissimo documentarista, che aveva già seguito un'avventura strombolana nel 2005 con, sì, con Giving Voice, un altro documentario, e ci siamo inventati questa coregia abbastanza singolare, nel senso che Enrico ha curato le riprese, ha organizzato tutte le riprese, ha fatto appunto la regia delle riprese e anche la scelta delle riprese, sì, perché io nel frattempo invece mi occupavo del festival, anche perché la regia teatrale di questa tempesta era mia, e io invece poi ho seguito il montaggio del film, quindi ci, okay, siamo affidati questi due momenti di, sì, realizzazione. Sì, sì. Allora a questo punto chiediamo ad Enrico il suo contributo al documentario per realizzare questo lavoro. Enrico, ci sei? Sì, ciao. Ciao. Stavo sentendo la fine dell'intervento. Ok. Il mio contributo è stato appunto quello di arrivare sull'isola, ed era un'isola piena di attività grazie al festival, e Alessandro stava preparando la tempesta e quindi ci arrampicavamo sugli scogli per cercare di prendere appunto questo making of di questa bellissima tempesta sulle spiagge, nelle grotte, e piano piano abbiamo cominciato, oltre a filmare la tempesta, anche a cercare di prendere tutti i contributi dei vari artisti, perché non solo la tempesta, nonostante era, diciamo, lo spettacolo portante, ma tutti i contributi dei vari artisti, dei danzatori, dei musicisti, e ognuno a modo suo faceva, diciamo, un omaggio a Shakespeare, portandolo e rielaborandolo, perché poi Shakespeare è probabilmente l'autore più, diciamo, che è rielaborato nella storia, e ogni attore ha un rapporto particolare con lui, perché lo ha interpretato quel personaggio o quell'altro, e quindi noi ci divertivamo così appunto a creare queste scene in mezzo all'isola, in mezzo al campo sportivo, al parco giochi, e omaggiare il grande autore. Allora torniamo anche ad Alessandro, volevo chiederti il rapporto con i vari artisti che si sono succeduti nel corso di queste edizioni del festival, e l'idea che sei riuscito a trasmettergli e che loro hanno vissuto di questo teatro ecologico. Sì, sono riuscito ad andare sullo streaming, ma sento con una distanza di tempo. Comunque ho sentito la tua domanda. Sì, allora intanto abbiamo avuto un grandissimo onore, che è stato la presenza di Bruce Myers, questo attore inglese che insomma ha lavorato nei più belli spettacoli di Peter Brook, a partire dal Mahabharata, che è venuto a regalarci la lettura di alcuni sonetti di Shakespeare appunto nell'originale inglese, e a questa cosa ha fatto da contrappunto invece una proposta di sonetti da parte di Lino Musella, che invece ce ne ha portati 30 in una traduzione tradimento, a detta del suo stesso autore, che è un poeta che si chiama Dario Iacobelli, che purtroppo non c'è più, e Lino ci ha regalato questi 30 sonetti appunto tradotti e traditi in lingua napoletana. Il rapporto con gli artisti durante la festa è sempre molto divertente, però finora ci siamo sempre molto divertiti, perché effettivamente gli artisti che decidono di venire accettano una sfida. e questa sfida è appunto quella di presentarsi senza i filtri della tecnologia e quindi di incontrare il pubblico sotto la stessa luce, appunto non c'è distinzione fra palco e platea, anche perché non c'è proprio un palco, non platea, e la luce è la stessa. E devo dire che a me rende molto felice l'atmosfera che si crea durante la festa, perché gli artisti si incontrano anche tra di loro, si vedono reciprocamente le cose che fanno, è come veramente una grande festa fra amici in cui ognuno porta un piatto, no? Sai quando si dice ognuno porta una cosa, ed è così, si crea questo grande banchetto di proposte diverse, no? E che quest'anno noi diciamo abbiamo fatto il primo piatto con la tempesta, però poi ci sono stati tantissimi altri meravigliose pietanze, altre meravigliose pietanze. Sì? E che altro c'è? Poi vabbè, nel documentario si vede appunto, si vedono Lino, Bruce, questi altri due artisti americani che sono Ken Cheeseman e Paula Lanton, che hanno raccontato la loro storia con Shakespeare, sono attori che hanno a che fare con Shakespeare sia come insegnanti che come interpreti da ormai più di 30 anni e ce l'hanno raccontata anche con delle canzoni intorno al fuoco, sulla spiaggia. E ci sono stati appunto Olimpia Fortuni e Piero Adolfo Ciulli che hanno danzato e con Enrico si sono inventati delle situazioni molto, molto divertenti con Enrico Parenti appunto per usare l'isola in varie incursioni danzate e musicate. E questo è. Senti, allora a questo punto chiedo ad Enrico il futuro di questo documentario e anche poi i riferimenti web per saperne di più. Se è prevista una qualche forma di uscita, di passaggio TV o di programmazione? Il documentario è andato subito in onda su Sky Arte in prima serata, sembra che l'hanno fatto alle 8:30 e poi già c'è stata un'altra replica. Sì. Adesso loro hanno comprato i diritti per una serie di repliche, adesso non ce n'è un'altra ancora in programmazione, ma a livello televisivo diciamo per l'Italia adesso abbiamo un contratto con loro, poi stiamo cercando di distribuirlo all'estero attraverso altre televisioni e chiaramente il circuito dei festival a cui stiamo lavorando, stiamo cercando di portarlo nei festival che si interessano di arte e quindi per adesso insomma siamo contenti, è partito bene, Sky Arte è andato molto bene. E c'è un sito internet o una pagina Facebook? Ma una pagina Facebook particolare effettivamente ancora non l'abbiamo creata, okay. Ma forse mi sto sbagliando e Alessandro lo sa più di me. Okay. E credo che sia ancora legato molto al Festival di Teatro Ecologico, okay. Che degli eventi diciamo sì. Li utilizziamo nella stessa sì, pagina. Sì. Allora però, sì. Se vi iscrivete lì poi vi faremo sapere. Perfetto. Anche l'altra pagina. Allora a questo punto nel salutarci Alessandro ci dai qualche anticipazione sulla prossima edizione? Sì, io come sempre ti dicevo vi sento in ritardo, quindi stavo sentendo adesso Enrico che diceva che non c'era un sito Facebook. C'è la pagina Facebook Festa di Teatro Ecologico dove ci sono anche immagini e informazioni della festa in generale e quindi anche del documentario. Okay. Quindi là si può venire a curiosare. E sì, quest'anno nella festa sarà dedicata, lo spunto è il compleanno, sono 200 anni dalla nascita di Henry David Thoreau, questo filosofo americano, scrittore filosofo americano, nato appunto nel 1817, autore di un romanzo che invitava alla vita nei boschi, al rapporto con la natura, e anche un altro bellissimo saggio che si chiama Camminare, invece in cui raccontava le speciali qualità del rapporto con il camminare, cioè il particolare camminare nella natura. E lui divenne subito molto amico di Emerson, che è il padre dei trascendentalisti, del movimento trascendentalista americano, che è autore di, a sua volta, di un bellissimo saggio che si chiama Natura, che inquadra la relazione con la natura in un modo molto sorprendente, interessante, estremamente classico da una parte, perché diciamo, ci sono tantissimi echi di Platone, ma anche molto attuale, molto stimolante per i nostri giorni. E quindi a partire da loro stiamo organizzando una serie appunto di eventi che di nuovo saranno teatro, musica, danza, letture e altri incontri, però a partire da quest'idea, da questo pensiero che si sviluppò appunto a metà dell'Ottocento in America, relativamente a un diverso rapporto con la natura, che vuol dire anche un diverso rapporto con il consumismo, il capitalismo, il potere, insomma potremmo dire tante cose. Loro per esempio i trascendentalisti si sono fortemente opposti alla guerra contro il Messico di allora, che ora torna abbastanza attuale, diciamo, in particolare Toro, che finì in prigione perché si rifiutò di pagare una tassa per la guerra contro il Messico, e anche furono loro tra i principali promotori e sostenitori dell'abolizione della schiavitù. Quindi insomma è un pensiero di 200 anni fa, più o meno 200 anni fa, che torna molto attuale, e ci fa particolarmente piacere quest'anno ricordare un'altra America, no? Un'America che è l'America che ci piace di più, che poi insomma dai trascendentalisti si arriva alla Beach Generation, a tutta quell'America che ha ripensato la relazione con il denaro, con il successo, con il mondo e con la natura. Beh, ci sarà modo di riparlarne a ridosso del festival. Io intanto magari ti abbraccio, Alessandro, e a presto. Abbraccio io te, grazie mille. Ciao, alla prossima, ciao. Ciao, ciao Enrico. Allora, un saluto anche ad Enrico, che è caduta la linea, però abbiamo sentito Alessandro Fabrizi ed Enrico Parenti, registi del documentario Shakespeare on the Rock. Sergio Ponzio del Cine Club de Tour per parlarci dei prossimi appuntamenti. Ben ritrovato Sergio. Grazie Federico, grazie alla radio. E il de Tour vi offre questi tre giorni intensi da venerdì a domenica, con tre strane serate di proiezioni, ma non soltanto. Partirei dalla serata di domani, che prevede la proiezione di un film, Gods of Bali, regia di Nicola Draculic, un film del 1952, una produzione abbastanza oscura olandese, però con lo zampino e la supervisione di un grande documentarista che è stato premio Oscar, Robert Schneider. Il film sarà sonorizzato dal vivo da Mike Cooper, che secondo la definizione di un critico musicale ultimamente è stato definito the icon of post everything music, un artista geniale, un musicista, cantante, autore, compositore, chitarrista di chitarra slide che si è più o meno costruito da solo, collagista del suono, artista radiofonico, performer, un musicista che è stato uno dei pionieri del blues inglese negli anni 60, ma che si è saputo reinventare e andare avanti nell'esplorazione musicale fino a oggi. Il film è un all'epoca nel lancio promozionale del film puntava soprattutto sull'esotismo, sulla sensualità delle giovani ballerine balinesi per attirare il pubblico all'epoca. Ma in realtà il film è modernissimo, ha un taglio antropologico, etnografico, è una presenta questi riti, danze, modi di vivere in cui la popolazione dell'isola interagisce con i demoni, con gli dei, quindi questi riti propiziatori che hanno a che fare anche con la trama, con il teatro, perché le leggende legate appunto alla al sistema, diciamo, teologico dell'isola, poi venivano rirappresentate da attori veri e propri. Quindi un film veramente molto molto interessante a livello visuale, con una colonna sonora eseguita dal vivo da nostro Cooper. Sabato, questo alle 20:30 di venerdì, ci si può prenotare sul nostro sito e potete anche rinnovare il tesseramento al nuovo anno se ancora non l'avete fatto. Sabato invece, con il sostegno e la collaborazione dell'Istituto Polacco qui di Roma, avremo una serata in cui presentiamo una selezione dei cortometraggi vincitori del Festival Opla. Opla è un festival di animazione d'autore contemporanea, quindi alla ricerca di giovani promesse e dei attuali talenti dell'animazione contemporanea polacca. È una serata particolare, quindi è offerta libera per tutti i soci del The Tour. Si tratta di un'anteprima italiana. Il festival, che cos'è? Una sorta di one man festival. Il personaggio centrale è Piotr Kardas, che avremo con noi sabato in sala e che quindi ci presenterà il festival, e lui è riuscito a fare tutto da solo, ma con in realtà uno scopo molto comunitario, l'idea di poter ricreare, di porre le premesse per ricreare un rapporto tra un pubblico e dei giovani filmmaker, dei giovani autori, attraverso un tour, quindi un festival che già si presenta come un tour in Polonia, arrivando anche nei piccoli villaggi, nei piccoli centri, a presentare questa selezione, e che poi al termine di questo tour polacco parte in giro per 5 continenti, e da 4 anni a questa parte viene ospitato a Roma da noi al The Tour, all'interno del panorama del On the Road Film Festival, come okay. anche quest'anno. Ultima cosa, se posso dire, certo. Domenica, quindi l'ultima di queste 3 serate particolari, in collaborazione invece con Cineama Distribuzione, il film presentato è anche qui un'anteprima romana, Alla ricerca di un senso. È un film francese, il titolo originale è Enquête de sens, un voyage au-delà de nos croyances. Ci saranno i registi in sala, quindi potranno interagire con il pubblico, Nathaniel Coss e Marc de la Ménardière. È un docu-fiction in cui due amici che si rincontrano dopo 10 anni e si riscoprono profondamente cambiati. Uno è impegnato nel documentarismo militante, quindi va in giro a documentare la mancanza d'acqua in India, mentre l'altro è diventato nel frattempo a New York un guru del marketing e quindi paradossalmente vende acqua in bottiglie per una multinazionale. Un incidente, diciamo, interrompe questo sogno americano di Mark, di questo guru del marketing, e lui, immobilizzato a letto, finisce per guardare tutti i documentari che il suo amico ha girato nel corso degli anni, e questo lo cambia, non sarà più in pace con la sua coscienza, e da qui inizierà un viaggio. Noi, sai, Federico, piacciono tanto i road movies, e questo è un road movie. I due partono per l'India con una piccola telecamera, un microfono, e vanno in giro a documentare, a chiedere, a informarsi, a cercare di darsi una spiegazione sullo stato della crisi attuale del mondo e su come si può ipotizzare un cambiamento. Queste sono le 3 serate che mi faceva piacere presentare agli ascoltatori della radio, e vi ricordo il sito cinedetour.it, dove appunto potete prenotarvi per le singole serate e avere altre informazioni. Sergio, un abbraccio e alla prossima. Grazie mille, Federico. Ciao, alla prossima. Ciao. Sergio Ponzio del Cineclub de Tour, un ultimo collegamento ora. Ritroviamo Andrea Paco Mariani di Distribuzioni dal Basso sulle novità del mese. Paco, ben ritrovato, come va? Buongiorno, bene, bene. C'eravamo sentiti a dicembre, prima del nuovo anno, ora siamo all'inizio di febbraio. Noi tutto bene, raccontaci un po' quali sono le nuove. Sì, abbiamo veramente tante novità, soprattutto tante acquisizioni sono partite, così tante che mi trovo costretto a farvi solo una selezione, mi scuserete, ma il resto lo vedrete sul portale opendb.it. E principalmente vi racconterò di due grosse novità sul nostro catalogo digitale. Sì. Una, la prima riguarda la sezione editoriale, cioè la sezione delle nuove editorie indipendenti che curiamo da ormai più di un anno. Bebert Edizioni, una delle prime case di editrici di indipendenti che abbiamo ospitato, è pronta a lanciare il suo nuovo libro, che si chiama Visto Censura, ed è una raccolta di scritti e di lettere dal carcere tra gli anni 70 e 80, principalmente di detenuti politici e di soprattutto legati alle Brigate Rosse. È un documento molto importante per varie ragioni che potete intuire, ma anche e soprattutto per tornare a vedere anche appunto di riscoprire anche tutto quello che sono, come posso dire, gli aspetti anche della vita quotidiana di queste persone e il lavoro di testimonianza che hanno fatto attraverso queste lettere. Il libro verrà lanciato ufficialmente domani sul nostro catalogo e anche con un'iniziativa pubblica che faremo qui a Bologna, VAC 61, e sarà una vera e propria prima nazionale del libro. La seconda proposta invece, della quale siamo molto contenti perché si inserisce in quel processo di internazionalizzazione e di apertura di network europeo che stiamo costruendo da alcuni mesi, è arrivato in catalogo il nostro primo documentario francese che si chiama La fête est finie, spero di averlo detto giusto perché non so il francese personalmente, e è un lavoro molto bello sul fenomeno della gerentificazione di Marsiglia, nata di conseguenza alla nomina di capitale di cultura europea di Marsiglia del 2013, ed è un lavoro di mappatura che fa vedere tutte le conseguenze che ci sono state sul piano urbanistico, sul piano degli sfratti forzati alle classi medio-basse degli appartamenti e di tutta una serie di trasformazioni che la città ha purtroppo subito in questo processo di trasformazione della potenza culturale dal basso di una città in vetrina culturale. Sì. È un fenomeno che conosciamo purtroppo molto bene anche in Italia, ma siamo molto contenti non solo perché La fête est finie ha avuto già lo scorso anno un ampio percorso di distribuzione dal basso in Francia, e quindi con l'autore ci siamo capiti subito anche sulle modalità e sui modelli di distribuzione che usiamo, ma proprio perché si inserisce in quel percorso di costruzione graduale di una rete di autori indipendenti europei. Aggiungo, legandomi sempre a questo, che noi abbiamo iniziato adesso a pianificare anche le prime iniziative pubbliche in giro per l'Europa, di presentazione del portale e soprattutto di correlazione con esperienze sull'estero. Una la faremo proprio a Marsiglia a fine febbraio, con l'aiuto del collettivo gli autori che ha costruito questo film che abbiamo lanciato, e l'altra la faremo invece domani a Bruxelles in un centro culturale autogestito a Molenbeek, che tra l'altro appunto conosciamo bene come quartiere dalle cronache di quest'ultimo anno, e quindi per noi assume anche un significato molto particolare, e quindi siamo molto molto contenti perché vediamo che piano piano non solo questa rete europea di autori si sta andando a costruire, ma che anche dall'estero e anche da altre esperienze in altri paesi c'è la nostra stessa fame e esigenza di provare a costruire un modo diverso di concepire la produzione e la distribuzione di opere culturali. Mm-hmm. E quindi in qualche maniera sentiamo finalmente di cogliere non solo il risultato, che poi non è la parola giusta probabilmente, però la possibilità davvero che un discorso, un immaginario sia assolutamente conciliabile con quello che sono le esperienze e le difficoltà che vivono in Francia, in Belgio, in Germania, altre esperienze indipendenti come sì, la nostra. Sì, sì. Senti Paco, c'è un terzo punto che riguarda un appuntamento qui a Roma. Esattamente, noi sabato vi aspettiamo, se vi fa piacere venire, sabato sera saremo alla Strada e a presentare il tour della campagna di coproduzione popolare di The Harvest. L'abbiamo avuto modo di parlare in questi mesi anche con voi durante i mesi della campagna. The Harvest è appunto il nostro nuovo film in produzione, che uscirà probabilmente in autunno, sulle nuovi fenomeni di sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, un film interamente girato nell'Agropontino e interamente girato con la comunità Sikh che vive nella zona. Il film appunto non è ancora uscito, ma siamo già in tour da diversi mesi con la campagna di coproduzione popolare, che è il nostro modello sia per provare a sostenere il film con una forma di autofinanziamento alternative, ma sia per costruire attorno al film una comunità di coproduttrici e coproduttori che vadano a essere anche la comunità, il dato politico del film stesso, cioè la possibilità che diverse esperienze si uniscano sotto l'insegna del film per mostrare questi temi, per dibattere su questi temi che noi riteniamo molto urgenti, come appunto quello della brutale nuove forme di sfruttamento dei ragazzi, in questo caso indiani, in agricoltura. La serata di sabato è una serata molto importante, non solo perché è la prima vera e propria data che faremo su Roma del progetto, ma anche perché sarà una serata più arricchita del forum classico che usiamo. Oltre alla presentazione, infatti, avremo anche il piacere di ospitare lo spettacolo dal vivo dei Bhangra Vibes, che sono il nostro corpo di ballo, sono ragazzi Sikh che praticano il Bhangra, che è un genere musicale e di danza tipico del Punjab, che fanno parte del cast artistico del film, proprio benissimo, perché il film sarà anche in parte un progetto artistico-musicale con tutta una serie di coreografie di danza che saranno parte stessa integrante della sceneggiatura del film. A partire da che ora, Paco? L'apertura dello spazio è per orario aperitivo, dall'incirca ci sarà appunto la presentazione del progetto con diversi ospiti, tra cui Marco Mizzolo, che ci ha aiutato in questo ultimo anno e mezzo nella costruzione stessa del film. Ci sarà poi la cena interamente organizzata per sostenere anche economicamente il nostro progetto di film, e successivamente attorno alle 10 di sera ci sarà lo spettacolo dal vivo dei Bhangra Vibes. Benissimo. Paco, un abbraccio, ci si vede sabato. A presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Al centro sociale La Strada in via Passino a Garbatella. Questo per quanto riguarda quest'ultimo appuntamento. È tutto per Visionari di questa settimana. Torniamo giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15, in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. Sull'home page c'è Ascolta la diretta. Tutte le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sul sito della radio, colonna centrale, trasmissioni Visionari, la pagina Facebook di Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.